Buonasera a tutti, inizia il programma Zardins Magnetics in diretta radiofonica ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E vi ricordo che siamo appunto in diretta dalle ore 20 e 15 circa, alle ore 20 fino alle 21:30, ma comunque andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Questo era il brano Retribution dei Behind Enemy Lines, ovvero la sigla di questo programma radiofonica che è in diretta qui dai studi di Radio Onde Furlane a Udine sui 90 MHz e andremo avanti appunto fino alle ore 21:30 come tutti i giovedì. Il momento Oh, ma la Ferratella occupa di sta roba del terremoto, qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno, no? No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci, ma. Vabbè, ciao. O no? Beh, certo, eh. Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbè. Ciao, ciao. Questi che abbiamo ascoltato ora erano gli Affluente dal loro brano Nel Senso, mentre ora andiamo all'ascolto dei Neid. E comunque tutti questi due band sono estratti da questa compilation che si chiama Inerzia della Catastrofe, dove hanno partecipato più band. È appunto un LP benefit. Comunque hanno partecipato il Lud, le Tormenta e Contrasto e i CGB. Ora andiamo appunto all'ascolto dei Neid. Zardins Magnetics si occuperà anche di presentare eventi e sensibilizzare intorno ai temi dell'anticarceraria e della repressione oggi qui in Italia. Ebbene sì, anche qui in Italia. Se state ascoltando Zardins Magnetics è già una buona cosa. Ma se volete è possibile riascoltare queste, le passate trasmissioni con zardinsmagnetics.radio.noblogs.org. Sto dando adesso dei riferimenti che daremo anche a fine trasmissione. E quindi mi sbilancio già con i contatti che ripeteremo a fine trasmissione. E quindi dico i contatti possibili con indirizzo di posta libere tutti chiocciola autistiche.org liberetutti@autistiche.org, ma anche un indirizzo di casella postale, perché soprattutto perché abbiamo l'idea che questa trasmissione venga ascoltata dai detenuti e dalle detenute, da tutte le persone costrette nella galera, e quindi un indirizzo di casella postale per i contatti è molto utile, talvolta si è rivelata fondamentale e vitale. Quindi Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Lunedì 15 febbraio, come assemblea permanente contro il carcere e repressione, ci troveremo in presidio davanti al consolato greco in solidarietà al compagno comunista Dimitri Koufotinas. Questo compagno è in sciopero della fame dall'8 gennaio per la nuova situazione che si è creata nei suoi confronti da parte del governo di Neodemocrazia, che è al potere da ormai un anno in Grecia. E la sua situazione è delicata per due motivi. Uno, il motivo per cui ha scelto di entrare in lotta con lo sciopero della fame, sia proprio per la sua situazione fisica. Partendo da quest'ultima, che è la più urgente da far comprendere rispetto all'urgenza di scendere in piazza, è il fatto che questo compagno, oltre ad essere adulto, anziano, ha 64 anni, è il quinto sciopero della fame da quando è in galera. Sciopero della fame sempre portato avanti per periodi non molto brevi. Comunque ormai siamo passati oltre il mese di sciopero della fame. E cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo compagno non sta ovviamente molto bene, e per dire, il magistrato di sorveglianza di Domokos, il carcere in cui lui è rinchiuso, dove l'hanno trasferito, in realtà lui adesso è in ospedale, ha fatto un'ordinanza ai medici che stanno curando il compagno, che stanno osservando il compagno, obbligandoli a nutrirlo forzatamente, ma i medici si sono rifiutati di farlo in quanto la loro etica professionale gliele impone. Allo stesso tempo, nel caso in cui il compagno avesse un tracollo e entrasse in coma, in quel momento lì i medici sarebbero costretti, sempre per le loro regole, diciamo, etiche a fare un'alimentazione forzata, e il compagno ha già avvisato che nel caso in cui non ottenesse quello che sta chiedendo, se ritornasse in sé, si strapperebbe i tubi dell'alimentazione forzata, e quindi insomma la situazione è bella urgente. E appunto noi il 15, lunedì 15 saremo sotto il consolato greco a portare solidarietà e cercare di fare un po' di pressione alle autorità greche rispetto alle richieste di questo compagno. Il compagno Dimitri Kufutinas è un compagno che è stato condannato per la partecipazione all'organizzazione del rivoluzionario 17 novembre, organizzazione di pensiero comunista che si rifà appunto al 17 novembre, giorno fondamentale della lotta contro il regime dei colonnelli, in cui nel 1973 ci fu una rivolta studentesca contro il regime, appunto, con l'occupazione delle università, con proteste anche molto accese, molto, con scontri di piazza molto forti. Ma in quel giorno il governo entrò con i carri armati dentro l'università, e da quel giorno in Grecia il 17 novembre è una giornata di lotta per tutti gli sfruttati e sfruttate, per chi ha una coscienza di classe. Perché il governo della nuova democrazia greca, del partito della nuova democrazia greca, si accanisce contro questo compagno per svariati motivi. Il primo è che questo compagno non ha mai calato la testa, ha avuto sempre un comportamento, diciamo, dignitoso in tutti i suoi passaggi storici della storia della sua vita in galera. Ma cosa sta accadendo? È che da anni il governo greco sta cercando di costruire, anche se dentro delle carceri già esistenti, dei reparti di carcere differenziato, cosa che in Grecia non esiste, invece in Italia c'è, come i 41 bis, la S2, la S3, la S1. In Grecia questa differenziazione tra detenuti non c'è, però appunto da qualche anno sta cercando di far sì che tutti i detenuti politicizzati, quelli ribelli che si organizzano nelle carceri, eccetera, vengano rinchiusi e isolati dai cosiddetti detenuti comuni. Tanto che Kufutinas non si trovava in queste carceri, ma si trovava nelle carceri rurali. In questo tipo di carceri ci finiscono i compagni detenuti che hanno un certo tipo di di vita dentro il carcere, cioè gli anni scontati, soltanto che con le nuove leggi del nuovo governo, se uno è accusato di terrorismo non può più stare in questo tipo di carceri rurali e dovrebbe tornare nel carcere in cui si trovava in precedenza. A Cufotina si in teoria doveva aspettare di tornare nel carcere di Korydallos, carcere quindi ad Atene, con una forte presenza di compagni, ma il governo ha fatto carte false per spostarlo appunto a Domokos, quindi in un carcere di differenziazione e di ulteriore isolamento per i compagni. Anni fa ci furono proteste molto forti dentro e fuori le carceri con scioperi della fame, battiture, rivolte e anche scontri in piazza, attentati contro la differenziazione nelle carceri. E il governo cedette, non riuscì a fare queste carceri di differenziazione tra detenuti. E quindi Cufotina, davanti all'evidenza di un ulteriore attacco nei suoi confronti, un ulteriore tentativo di fare un passaggio politico, anche strategico, da parte del governo della nuova democrazia greca, e lui ha deciso appunto di entrare in sciopero della fame dall'8 di gennaio. Il 7 febbraio ad Atene si è svolta un'assemblea in solidarietà del compagno Dimitri Koufoutinas, la quale lancia per venerdì 12 febbraio una giornata di solidarietà nei suoi riguardi. Nelle ultime settimane ci sono state svariate iniziative, azioni in tutta la Grecia, soltanto che negli ultimi mesi il governo nei momenti di piazza ha creato una forte opposizione a chi cercava di organizzarsi per commemorare soprattutto le giornate appunto del 17 novembre, come dicevo prima, una giornata molto importante, ma anche del 6 dicembre, quindi l'anniversario della morte di Alexis Grigoropoulos nel dicembre del 2008. E questo fa sì che le iniziative appunto siano più complicate del solito. Quando i compagni hanno cercato di scendere in piazza, in corteo, sono stati caricati, ma allo stesso tempo ci sono state svariate azioni di varia natura in tutta la Grecia, dall'occupazione dei sedi del partito al governo, alle scritte sui muri, imbrattamenti e anche attacchi notturni contro banche, poste e comunque strutture del governo. I media locali stanno tenendo sottotono la protesta di questo compagno, nei giornali locali se ne parla poco, però due azioni in particolare hanno creato scalpore, con una propaganda ovviamente al negativo, c'è cioè l'esplosione di alcuni ordigni esplosivi davanti alle case, sotto le macchine di alcuni componenti del partito al governo che si sta accanendo contro questo compagno. Ovviamente la propaganda di Stato dice, ecco, vedete, ecco, vedete chi difende dei criminali, degli assassini, loro dicono questo perché l'organizzazione del 17 novembre si è rivendicata in decenni di storia delle uccisioni di alcuni responsabili dello sfruttamento e della repressione in Grecia. Ovviamente questa storia qua non è ancora non è dimenticata da parte degli organi repressivi di Stato e quindi stanno facendo questo ennesimo sgarro nei confronti suoi, ma che ovviamente può aprire delle porte alla repressione anche in futuro a chi deciderà di affrontare a viso aperto le istituzioni e i repressori del popolo greco. Per tutti questi motivi noi scenderemo appunto, ripeto e invito, il 15 febbraio a Trieste davanti al Consolato Greco in via Rosini 16 e ci troveremo lì dalle 10 di mattina a mezzogiorno. L'intento è appunto di fare un presidio per comunicare sia come la vediamo la faccenda, sia per far capire alle persone la situazione e la storia di questo compagno, del perché siamo solidali con lui per la sua militanza politica e anche per cercare di fare un po' di pressione alle autorità greche. Dello sparo. Troppo vicino, da dietro. E abbiamo appena ascoltato un intervento sulla terribile situazione del compagno Dimitrico Fontinas e anche da qui, da Zardins Magnetics, vogliamo ricordare ancora l'appuntamento di Trieste davanti al Consolato Greco in via Rossini 16. È una presenza che si terrà, un presidio che si terrà lunedì 15 febbraio dalle 10 alle 12. Sarà un importante, lo ripetiamo, importante e viva presenza solidale. 4th of July. They were in a fight, he stopped turning the smoke. Cleared, there was a blood soaked Bible in the sand. In the name of the Father, in the name of the Father, by the divine grace of God. In the name of the Father, by everything that's good. In the name of the Father, by the divine grace of God. God, God, God, God, God, God, your God. There was a Quran in the mountains, and it promised a solution from all our sins. It was the fight until the ammunition was spent, its pages torn and flapping in the wind. In the name of the Father, in the name of the Father, by the divine grace of God. In the name of the Father, by everything that's good. In the name of the Father, by the divine grace of God, God, God, God, God, God, your God. E quelli che abbiamo ascoltato ora in sottofondo erano la band inglese Inner Terrestrial, mentre volevo un po' ribadire durante gli interventi precedenti le band che abbiamo ascoltato, che in un certo senso avevo anche già presentato, ovvero da questo LP compilation Inerzia della Catastrofe, dove hanno partecipato varie band italiane dell'hardcore, ovvero gli Affluente, i Neid, i CGB, i Contrasto, il Lud, e poi per ultimo il brano ultimo che abbiamo ascoltato erano le Tormenta. Ora andiamo invece all'ascolto di questo album di una storica band inglese del punk hardcore degli anni 80, ovvero i Broken Bones. Do I hear you? quelli che stiamo ascoltando sono i Broken Bones, band storica del panorama punk hardcore inglese degli anni 80. Infatti questo disco, che si intitola Them Bones, è uscito proprio nel 1984. E scusate, rimaniamo sempre in Inghilterra e ci andiamo nuovamente ad ascoltare gli Inner Terrestrial direttamente da Londra. Let's go! Eccoci, questa è Zardins Magnetics su Radio Onde Furlane e ora vogliamo passare l'intervento di un compagno che ci parlerà anche della seconda battitura delle detenute del carcere del Coronele di Trieste e la battitura si svolgerà lunedì 15 febbraio alle 15.30 e ci sarà sotto le mura della galera di Trieste una presenza solidale. È interessante l'intervento di questo compagno e l'intervento che segue è molto interessante, va seguito bene, e una chiamata per lunedì prossimo a Trieste. Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics, oggi vi volevo rinnovare l'invito a esserci il 15 febbraio sotto il carcere di Trieste alle ore 15.30 per sostenere le detenute del Coroneo. Le detenute del Coroneo stanno conducendo una lotta con battiture a più riprese per rivendicare di essere sottoposte a tamponi ed esami del sangue sierologici piuttosto che essere costrette alla vaccinazione, per rivendicare l'indulto, per rivendicare domiciliari per le persone con problemi sanitari e gravi patologie e per i detenuti in residuo di pena. Noi eravamo già il primo febbraio sotto il carcere del Coroneo a battere pentole, abbiamo fatto una cacerolata, come si dice, una protesta con pentole o comunque con rumore, e abbiamo sostenuto in questa maniera le detenute che invece battevano sulle inferriate delle loro celle nel carcere. Il 15 febbraio ci sarà di nuovo questa battitura e noi saremo di nuovo lì come assemblea permanente contro il carcere e la repressione. È una lotta questa delle detenute per la sanità, per una sanità e la salute anche all'interno del carcere, è una lotta per l'autodeterminazione dei propri corpi, perché e la questione del vaccino è una questione che deve essere rimandata alla volontà del singolo, mentre una struttura come il carcere e il ricatto che deriva dalla condizione carceraria non consente che ciò avvenga, soprattutto in una condizione di sovraffollamento come è la condizione delle carceri italiane e del carcere del Coroneo a Trieste. E ricordiamo che da quanto si apprende dalla stampa, il vaccino che dovrebbe essere somministrato ai detenuti e alle detenute in Italia è il vaccino di AstraZeneca, un vaccino già di per sé con una genesi piuttosto particolare, si dice adatto a cioè sperimentato, sicuro per i minori di 55 anni, cosa piuttosto singolare, perché come sappiamo la maggior parte delle vittime del Covid-19 hanno sicuramente più anni di 55. Ovviamente ci sono anche le eccezioni, però fa specie che l'Unione Europea e l'Italia abbiano anche acquistato dosi di un vaccino così particolareggiato nella sua applicazione e somministrazione, pare già a sentire così inadatto a prevenire questa malattia, prevenire soprattutto nelle dimensioni più gravi che possono portare anche, come sappiamo, tragicamente alla morte. Fatto sta che questo dovrebbe essere il vaccino lo Stato italiano riserverà ai detenuti e alle detenute nelle galere italiane, è notizia di inizio di questo mese che ad esempio la Svizzera non ha, vuole fare ulteriori approfondimenti sul vaccino AstraZeneca, per il momento non l'ha autorizzato, sia perché non è l'efficacia del vaccino è in dubbia, e sia perché anche la sicurezza del vaccino è dubbia. Quindi tutte queste, diciamo, una certa, come dire, un certo scetticismo, una certa ironia e anche un sentimento di superiorità e di disprezzo che si è sostenuto rispetto a quanto rivendicano le detenute della sezione femminile del carcere di Trieste, ad esempio da parte del giornale Il Piccolo, che ha detto che evidentemente non sono bene informate sul vaccino o, essendo straniere, non sono consapevoli della necessità del vaccino. Beh, questi messaggi che hanno un significato propagandistico implicito, cioè queste sono prigioniere, criminali e sono pure ignoranti e straniere, questo messaggio così di razzismo perbenista che ci arriva dal locale giornale Confindustriale, Il Piccolo, e viene un po' smentito anche dai fatti. Quello che stanno sostenendo le detenute è una lotta per la loro salute nella condizione in cui sono, ed è una lotta di autodeterminazione sul proprio corpo, una lotta autodeterminazione che ovviamente il carcere nega, e una lotta che invece secondo me è per certi versi d'esempio, altro che non consapevolezza. C'è una dignità, c'è una volontà di far valere le proprie ragioni, che sono ragioni, e anche di resistenza, di continuità, perché insomma quella che faremo il 15 febbraio alle 15:30, lo ricordo, sarà la seconda battitura insieme alle detenute. Loro ne hanno già fatto una diciamo precedentemente, anche al 1 febbraio, la prima volta in cui siamo state con loro, e quindi stanno conducendo questo percorso già da tempo. Puoi avere 3 mesi di RC Auto gratis. Souls on fire! Yeah. aggiunta a quanto già detto, cioè alla chiamata alla battitura solidale per il 15 febbraio alle 15.30 sotto il carcere del Coroneo a Trieste con le detenute della sezione femminile in lotta, volevo spendere due parole sul procedimento, anzi oramai processo, che si sta svolgendo a Udine presso il Tribunale di Udine a carico del sottoscritto e di un'altra compagna dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione. E questo processo è sostanzialmente verte sostanzialmente su reati d'opinione, diciamolo, perché siamo accusati di istigazione a delinquere di diffamazione. Lo siamo sulla base di notizie di reato, di filmati, di intercettazioni, diciamo ambientali, cioè più che intercettazioni direi le solite riprese e il solito servizio di spionaggio che la Digos svolge durante coltei e manifestazioni per diversi interventi di solidarietà in particolare ai compagni. L'episodio che mi viene imputato è un intervento in solidarietà ai compagni anarchici di Trento e Rovereto, arrestati nell'operazione Renata, intervento svoltosi il 23 dell'11 del 2019 a Udine, in occasione di un corteo della coordinamenta transfemminista, in cui avrei fatto apologia di attacchi che sono imputati a questi compagni in questa operazione di polizia, in questo processo ancora in corso a loro carico, attacchi contro la Lega, partito reazionario e razzista, e attacchi contro la banca Unicredit, che è uno dei grandi investitori finanziari nella Turchia di Erdogan. E poi c'è una, sempre a mio carico, apologie di reato, un altro discorso svolto presso la casa circondariale di Udine, il carcere di Udine, il 28 del 12 del 2019, un discorso in cui tra l'altro parlava dei motivi per cui si finisce in carcere, sicuramente la rapina in banca, voglio ribadirlo, non è a mio avviso è chiaro che per lo Stato capitalista è un reato, una cosa disdicevole, è un male, io dicevo, insomma, memore anche di quanto dice Bertolt Brecht, che fondare una banca è molto peggio di sfondarla. Sostanzialmente, e poi che mi riferivo sempre in questo discorso alla storia di quel carcere, in particolare all'assalto dei garibaldini nel febbraio del 45, e poi all'eliminazione di Santoro nel 78, che era un picchiatore, un secondino picchiatore all'interno del carcere, e con riferimento al fatto che tutti i cicli di lotta di classe, sia la resistenza prima sia successivamente gli anni 70, hanno toccato anche il carcere. Ecco, quindi è questo il discorso. Se questa può essere un'apologia, allora ogni volta che si parla di eventi che riguardano rivoluzionari del passato bisognerebbe denunciare e perseguire. E rispetto alla compagna vi è invece un'imputazione di diffamazione all'apologia per un'intervista che secondo l'accusa l'avrebbe rilasciato alla radio web Radiazione, in cui si denunciava come la dottoressa Bravo del carcere tratta i prigionieri, cioè meglio non tratta, cioè come viene trascurata la salute dei prigionieri del carcere di Via Spalato di Udine. Questa intervista sarebbe del 29 del 12 del 2019. Queste accuse sono volte a fanno parte di una serie di procedimenti a carico di compagni e compagne dell'assemblea. Una compagna ne ha condizionate tre di denunce per reati di opinione, cioè per concetti espressi durante discorsi tenuti durante i presidi fuori dalle galere. Tentativo delle questure di Trieste e di Udine e delle procure di colpire la nostra attività, di colpire la solidarietà che portiamo avanti rispetto alla condizione dei detenuti, di colpire il fatto che tentiamo di spezzare l'isolamento del carcere, che il carcere dovrebbe determinare. E queste inchieste, queste Questi procedimenti penali partono sempre da concetti, dalla criminalizzazione di concetti politici, ideologici, ideali che evidentemente non sono conformi alle cosiddette verità dominanti, verità imposte arrivano poi a colpire un percorso di lotta che evidentemente dà fastidio. Noi continuiamo a portarla avanti, eravamo sabato 6 fuori dalla galera di Tolmezzo, saremo il 15 febbraio alle 15.30 fuori del carcere del Coroneo di Trieste, quindi non ci facciamo intimidire da questi attacchi e pensiamo sia importante continuare a chiamare le cose col loro nome. Un medico che lascia i detenuti in una condizione di abbandono è un aguzzino, a nostro avviso è giusto colpire chi è direttamente o indirettamente è responsabile di razzismo, guerra imperialista, oppressione. Pensiamo sia importante solidarietà, essere solidali con chi lotta in termini rivoluzionari e per questo viene colpito dallo Stato. Pensiamo sia importante non disperdere un patrimonio di lotta contro le carceri che fa parte insomma della lotta di classe qui nelle nostre terre e in generale un po' ovunque. E dappertutto insomma si è manifestata la lotta di classe e vi sono stati cicli di lotta di classe, quindi insomma la miglior risposta a questi attacchi è esserci il 15 febbraio alle 15.30 fuori dal carcere del Coroneo in solidarietà alle detenute e comunque continuare a praticare la solidarietà, la lotta e l'unità contro chi ci vuole far male. Che magari ci tengo a dire che hanno poi cambiato il nome da Wolfpack in Wolf Brigade, tenendo sempre la stessa formazione, perché Wolfpack c'era anche un gruppo neonazista di motociclisti, e allora loro hanno preferito cambiare nome per non essere confusi con questa, diciamo, banda neonazista. Comunque rimaniamo all'ascolto di questi Wolf Brigade. Eccoci quasi in finale di Zardins Magnetics, e come fatto in apertura adesso vogliamo ripetere gli indirizzi per i possibili contatti, ma prima di tutto l'indirizzo per riascoltare questa Zardins Magnetics, ma anche le passate, perché esiste un blog, zardinsmagneticsradio.noblogs.org, però lo ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ma anche vi ridiamo gli indirizzi di contatto per rintracciare assemblea permanente contro il carcere e la repressione. C'è liberetutti@autistiche.org, liberetutti@autistiche.org, e questo appunto l'indirizzo di posta elettronica, ma anche possiamo ricordare il contatto al quale è possibile scrivere con classiche e sempre bellissime carta e penna: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Ancora, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. We'll be right back. Bene, sfumo questa band, anzi ci parlo sopra, perché siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Jardins Magnetics, che come già anche annunciato all'inizio e anche durante il programma, è una trasmissione che va in diretta radiofonica ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20:15 alle 21:30 qui da Udine. In sottofondo c'è questa band che si chiama Lazarus Black Star ed è uno split album assieme ai Black Shape of Nexus. È un po' genere doom metal che solitamente non mandiamo in onda. Abbiamo anche il dubbio che questo album andasse a 33 giri anziché 45 come sta andando, perché sono solo due i brani per lato. Comunque, al di là di questo, una cosa che volevo dire appunto, perché questo disco è uscito grazie all'etichetta tedesca, comunque nel 2014, non l'ho detto, è uscito nel 2014 questo split grazie all'etichetta tedesca Allerta Antifascista, e che appunto una cosa notevole, il fatto che a parte le oltre 100 uscite discografiche per questa etichetta, ma perché diciamo che il genere non è più il solito punk hardcore, crust, anarcho punk, ma si sta allargando anche su altri generi e appunto sul diciamo, era tutto un discorso che volevo dire sul fatto che queste band in passato erano quasi abbastanza diciamo molto maciste, c'è molto macho man, molto metal vecchio stile, e comunque si stanno appoggiando appunto a questo tipo di etichette completamente nel campo delle autoproduzioni, come appunto l'Allerta Antifascista. Comunque rimaniamo all'ascolto di questi Lazarus Black Star.